E allora, bentrovati e bentrovate sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 87.9. Siete ad entropia massima. Quest'anno abbiamo ripreso la trasmissione con i nostri temi classici e questa che vi presentiamo oggi è la trasmissione sul ciclo tecnologico che quest'anno abbiamo chiamato in un modo un po' diverso dal solito e infatti si chiama estrattivismo dei dati, quindi già questo ci dà un po' una misura di quello che sarà in questa stagione, le cose di cui andremo a parlare. Insomma, sono argomenti che abbiamo già trattato chiaramente varie volte, e quindi non ci sono novità. La novità è che lo faremo in maniera più approfondita e ovviamente, come sempre, ma quest'anno forse in maniera ancora maggiore, inseriremo la nostra critica politica in questo contesto. Quindi abbiamo iniziato Entropia Massima parlando di insostenibilità, abbiamo parlato di transizione ecologica e oggi parliamo di transizione digitale. Le due definizioni sono molto simili. Transizione ecologica, quindi Ministro Cingolani, transizione digitale, Ministro Colao. E abbiamo molto da dire su entrambi i temi, ci sono tante intersezioni tra i temi, oggi ne troveremo alcune. Parlare di ecologia digitale un tempo forse poteva essere considerato un po' difficile, no? Da integrare come tema, invece assolutamente, come insomma, dimostreremo oggi, ci sono tanti punti di contatto. Fra l'altro, nella conferenza di AICA 2021, l'AICA è l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, un'associazione storica di informatica, si è parlato proprio di insostenibilità delle trasformazioni digitali e di estrattivismo dei dati, quindi siamo perfettamente allineati con i colleghi di AICA su questo punto. E cosa si intende per estrattivismo dei dati? Beh, già la parola estrattivismo è una parola che richiama comunque concetti di sostenibilità, inevitabilmente, e l'estrattivismo, no? Però dei dati. E quindi allude chiaramente a questa irrefrenabile corsa estrattivistica, appunto, alla concentrazione di dati, una concentrazione esasperata di dati che genera delle questioni di insostenibilità di vario genere. Una di queste sicuramente è quella che possiamo immaginare più chiara, no? Però parleremo oggi anche di un'altra. Quella più chiara è quella che riguarda semplicemente il modo in cui l'energia viene utilizzata all'interno dei dispositivi che servono per far funzionare il digitale. Lo faremo con due esperti del settore. Che insomma, saluto subito, ci hanno raggiunto Giovanni Biscuolo e Giacomo Tesio. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Ciao, buonasera Davide. Eccoci, sì, un po' di microfono alto, ma va bene, adesso lo abbasso, non è colpa vostra. Grazie. D'accordo. Allora, facciamo un piccolo cappello, no, a questa prima parte di trasmissione e parliamo del carbon footprint, quindi l'impronta ecologica, insomma, dell'IT, dell'information technology. La domanda che ci poniamo è: quanto inquina il cloud? Di cloud computing abbiamo parlato tante volte, certamente il cloud computing non riassume in sé tutto l'IT, però buona parte, una parte molto grossa, purtroppo sempre più grande. E dico purtroppo perché, come sa chi ci ascolta, il cloud si contraddistingue per una certa opacità nel rapporto che si può instaurare, no? Con chi si serve di questi servizi, che sono senz'altro molto comodi, ma che cedono al provider un controllo totale su quanto viene elaborato e soprattutto anche sui dati. E i cloud provider competono per essere sempre più verdi, e questo come tutte le aziende al giorno d'oggi, appunto, ecco, transizione ecologica e digitale che si intersecano, ma sappiamo che è una tattica di marketing, il cosiddetto greenwashing. Soprattutto i cloud provider non forniscono ai clienti i dati necessari per calcolare le proprie emissioni. Sapete che per calcolare le emissioni c'è un protocollo, il protocollo GHG, che tiene in conto quelli che sono i consumi quindi di elettricità, e ne tiene conto rispetto a quant'è l'emissione di gas serra relativa a questi consumi energetici. Come si calcola? Beh, bisogna calcolare chiaramente l'energia consumata e poi bisogna moltiplicare per un fattore di emissioni che è espresso in grammi di CO2 equivalenti per kilowattora. E questo è associato chiaramente alla generazione di elettricità. Il fattore di conversione da energia elettrica a GHG, GHG significa greenhouse gases, quindi gas che fanno effetto serra, dipende da quali fonti sono utilizzate per produrre quell'energia, quindi se sono rinnovabili o meno, quindi dipende un po' dalle miscele elettriche e questo è diverso da paese a paese, quindi c'è chiaramente una diversa intensità di carbonio che si può rilevare a seconda di dove viene effettivamente usata quell'elettricità. E naturalmente vanno diminuiti entrambi i fattori, sia la componente appunto per la quale si moltiplica, quindi sia come hai prodotto quell'energia, ok, ma anche i consumi stessi sono chiaramente un problema. I data center, che sono lo strumento attraverso il quale il cloud computing diviene possibile, consumano, si calcola, tra i 200 e i 500 terawatt-ora. La forchetta è molto elevata, le stime sono difficili, si parla proprio di stime perché è difficile appunto, in mancanza di dati, avere delle stime accurate. Le stime più conservative parlano di 1% di energia elettrica globale, cioè i data center contribuirebbero almeno per l'1% all'energia elettrica globale, probabilmente molto di più, 2-3%, e c'è un dato che riguarda quello che è la tendenza: al 2050 arriveremo al 13%, quindi è una crescita molto molto veloce. Chiaramente le fonti rinnovabili aiutano, ma aiuta anche, e forse anche di più, contenere i consumi. E quindi, siccome dal 2017 tutte le grandi imprese quotate devono includere anche, diciamo, nel loro bilancio annuale anche un report sulla propria impronta ambientale, e va da sé che tutti diciamo, si devono occupare in qualche modo di questo, e lo fanno anche i provider di questi servizi, no? Quelli che forniscono i servizi di cloud computing. Quindi sì, diciamo, il problema però è che, come accennavamo, risulta difficile per chi invece si serve di questi centri di elaborazione per fare le proprie cose, per erogare i propri servizi, di calcolare quanto sta inquinando, perché al massimo saranno i grandi gestori di questi centri di elaborazione a poterlo fare. Quindi, diciamo, stiamo tutti un po' a ricasco di quanto dichiarano loro. E questo significa che se io ho un data center on premise, come si dice, cioè se ho un data center sotto il mio controllo, acquisisco server fisici, dischi, dispositivi di rete da fornitori, e quindi evidentemente ho un controllo su quello che sto acquistando, so quanto sto consumando, perché semplicemente acquistando questi dispositivi già sto inquinando perché qualcuno li ha dovuti costruire, però almeno so chi lo ha fatto. E poi c'è la parte invece di consumo effettivo, quando partono le applicazioni web in esecuzione su questo hardware fisico. Lì c'è una nuova componente che pure io posso stimare se ho il controllo del data center, quindi del luogo dove avvengono le elaborazioni. Cosa succede invece con il cloud computing? Succede che questo controllo lo perdiamo e viene dato ai questi cloud provider, appunto fornitori di servizi in cloud, che costruiscono e gestiscono i data center e poi vendono al pubblico in modalità, si dice, multi-tenant, cioè si fa in modo che queste risorse possano essere condivise fra tutti i clienti di questi loro servizi. Quindi si effettua una classica astrazione, come si dice spesso in informatica, no? Rispetto alla sottostante infrastruttura, che può essere molto comoda, ma sicuramente non ci dà modo di diciamo, valutare l'impatto ambientale causato dalle apparecchiature e soprattutto dai servizi che altri, i loro clienti, erogano. Quindi a questo punto, diciamo che vorrei chiedere un po' ai nostri ospiti qualcosa in più su questo punto, no? La distribuzione nel cloud è più ecologica dei vecchi data center on premise o no, visto che diciamo è più massiccia? Io direi che non possiamo dirlo. Di sicuro può essere venduta come tale, nel senso che per certi aspetti potrebbe ricordare la gestione dei rifiuti tossici negli anni 90 da parte della camorra, cioè è facile dire a chi vuole sentirsi dire che la computazione ha un basso impatto ambientale, dirgli sì sì, noi abbiamo un basso impatto ambientale, tanto se non puoi controllare perché la tua computazione distribuita lungo tutto il pianeta, appunto, diventa difficile verificarlo. Sicuramente è vero che esistono economie di scala, quindi questo sarebbe sbagliato negarlo. D'altro canto, è anche vero che per raffreddare i propri computer questi GAFAM devono fare delle cose impensabili, e quindi dà un'idea, no, dell'impatto ambientale che possono avere questi sistemi. Ecco appunto i GAFAM, che lo diciamo ancora, cosa si allude per questa sigla? Si allude ovviamente ai cinque più grandi player, detti anche Big Tech, quindi ogni lettera di questa GAFAM ne sta per uno, quindi Google, Amazon, Microsoft, Facebook e Apple. Sono diciamo appunto questi fornitori in cloud. Dobbiamo dire per correttezza che sono tra i maggiori acquirenti di energia rinnovabile. Questo anche perché appunto c'è una legge che lo prescrive. E quindi hanno dei valori di PUE, cioè Power Usage Effectiveness, un parametro che appunto misura l'efficienza nell'utilizzo di potenza, effettivamente superiore. Però mentre loro eventualmente sono in possesso dei dati necessari per calcolare la loro impronta ecologica globale, quella complessiva, no? Di tutto quanto quello che è il data center, quindi di tutti i servizi ospitati da soggetti Questo non è come. proprio vero, se Ah, ecco, posso. neanche questo è Cioè, vero, dai, dimmi. no, nel senso che appunto loro possono calcolare l'impatto del data center, loro possono guardare quanto spendono in corrente elettrica, no? E lo possono fare in tutti i loro data center, la cui collocazione peraltro non è nemmeno pubblica, quindi noi invece facciamo fatica a saperlo dove si trovano. Invece non possono stabilire con certezza e con precisione il consumo che loro usano, l'applicazione che loro ospitano, che viene scaricato sugli utenti, perché nel momento in cui un utente, che ne so, guarda Gmail, per fare un esempio di Google, no, sul proprio cellulare, l'impatto di carbon footprint, non è solo sul data center, ma anche su una discreta parte di elaborazione che avviene sul cellulare e che viene pagata dall'utente, che naturalmente non è consapevole di questo ragionamento, ma lo sviluppatore, le aziende che sviluppano queste cose fanno il possibile per distribuire il carico il più possibile sull'utente in modo tale che sia il costo economico dell'energia elettrica, che diventa rilevante su scala, quando l'applicazione è a scala planetaria, sia naturalmente poi di fatto anche gli indici che servono poi per i propri report aziendali siano bassi. Quindi un attimo di dicevo, puoi dire di avere un bassissimo carbon footprint perché hai scaricato tantissime delle lavorazioni sui client degli utenti. Certo, quindi neanche il calcolo che ci forniscono in realtà è completo, giustamente dici te. Ma ad No, ogni è largamente è largamente sottovalutato, sottodimensionato. certo, perché poi comunque in ogni caso le persone appunto utilizzano i propri dispositivi per connettersi a quel servizio Certo. e quindi inquinano di più. E quello non viene tenuto in conto, già questo quindi è un errore. Di sicuro però noi non possiamo sapere se i clienti stanno inquinando, giusto? Perché quei dati non ci sono, cioè non vengono rilasciati i dati che ci dicono, non so, mettiamo il Ministero della Giustizia italiano sta usando dei cloud di Amazon, quanto sta inquinando? Noi non lo possiamo sapere perché quei dati non ci sono, sono dati che siano affogati all'interno dei dati complessivi, così. Certo. Sì, e se posso aggiungere una Prego. considerazione, se posso aggiungere una considerazione è che da questo punto di vista loro hanno i big data e noi su queste cose qui abbiamo very little data, perché queste cose qui, queste informazioni non vengono fornite pubblicamente, e questa è una cosa che a me da cittadino infastidisce particolarmente, perché se tutti noi dobbiamo essere responsabili sulle emissioni, non vedo perché i dati di questi servizi, che sono ormai di utilità pubblica, non debbano essere a disposizione di tutti i ricercatori che fanno studi su questi argomenti. E poi è stato già detto, ma mi permetto di dirlo con una brevissima simple slogan: i dati nel cloud sono tutte copie di dati che poi in realtà non li abbiamo sui nostri client, e quindi dobbiamo pensare anche a questa cosa, che in realtà un certo consumo locale ce l'hanno tutti gli utilizzatori di cloud. Certo, assolutamente. Chiaramente il consumo invece che avviene, diciamo, in remoto sulle appunto infrastrutture cloud, invece quello è fuori dal nostro controllo, e non sappiamo appunto questi dati che giustamente Giovanni dice, se ce li dessero magari si potrebbero fare degli studi, anche dei ricercatori potrebbero usarli, però non vengono dati, e non vengono dati perché vengono considerati un segreto competitivo. Quindi questo segreto, come sappiamo, viene custodito con una violenza, no? Uso questo termine che non è fuori luogo, perché si tratta davvero di violenza quella che viene usata nel tenere segreti e nascosti questi dati che faticosamente sono stati catturati da questi signori, no? E che si guardano bene dal dare ad altri, sicuramente al grande pubblico, ma neanche ai loro competitor. Quindi c'è un problema enorme. Come se ne esce? Timothy Gebru è stata licenziata per questo, e dopo di lei Margaret Mitchell, cioè da Google, sono state licenziate perché la prima, perché ha rifiutato, ha scritto insieme ad altri ricercatori un'analisi in cui metteva in discussione e chiedeva un'analisi critica degli effetti collaterali, no? Sia sociali, anche ecologici, che certi modelli linguistici, quelli che interpretano il linguaggio, quelli che utilizziamo quando diciamo ok Google, oppure quelli che utilizziamo per tradurre da una lingua all'altra con Google Translator, oppure modelli linguistici simili a quelli che per esempio utilizza Copilot per i programmatori che sono eventualmente all'ascolto. Metteva in discussione i problemi che potevano comportare, fra cui quelli di consumo energetico, perché creare e tenere aggiornati dei software statistici, quelli che software programmati statisticamente, quelli che comunemente vengono detti, per dargli un'aurea mistica, intelligenze artificiali, questi software richiedono un sacco di energia per essere creati, programmati appunto statisticamente, mantenuti aggiornati. E quindi lei discuteva questa cosa, ha scritto un paper insieme ad altri, la direzione di Google gli ha chiesto di non firmarlo, perché lei lavorava per Google, in quel momento stava facendo un'analisi, avendo accesso ai dati di Google a riguardo, e lei si è rifiutata, non solo, ha chiesto dei cambiamenti all'interno dell'azienda per fare delle analisi e dei lavori su questo, in modo da minimizzare questi costi e anche da renderli espliciti, e l'azienda gli ha detto va bene, grazie, ciao, arrivederci. L'ha licenziata da un giorno all'altro, e poi la sua collega, peraltro lei era membro dell'ethical team, di ethical AI team di Google, cioè si occupava proprio dell'etica, perché poi tu parlavi di greenwashing, ma l'ethical washing e l'open washing qua vanno proprio a fiumi. Lei era membro, era uno dei due capi del ethical AI team di Google, ed è stata licenziata in tronco per aver rifiutato di ricusare questo articolo. E poi Margaret Mitchell, l'altro leader di quel gruppo, ha scritto un piccolo softwareino per raccogliere all'interno di Google i dati relativi al licenziamento della collega, perché in quanto membro di un comitato etico riteneva etico, no, analizzare che cosa fosse successo. Ebbene, è stata licenziata anche lei. Quindi diciamo che le attività industriali Le più varie sono abbastanza ben documentate, energia, trasporti, imballaggi, eccetera, sono ben documentate, abbiamo dei dati, abbiamo dei database che si possono consultare, i ricercatori li possono consultare, fare delle considerazioni. Purtroppo invece in questo settore non ci sono. Ci prendiamo allora una piccola pausa musicale, visto che appunto i nostri eroi pensano di essere nel giusto, no? Con il loro approccio green finto. Ci ascoltiamo un brano di Skunk Anansie, Hedonism, che appunto dice così: Just because you feel good doesn't make it right. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are the special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't make you right. Oh now, just because. Left to still discover you. I see through all those smiles, it looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel torniamo in diretta, siamo a Entropia Massima, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo parlando di estrattivismo dei dati. Abbiamo visto nella prima parte di trasmissione, insieme ai nostri ospiti, il modo in cui i cloud provider sifonano i dati energetici, ce li nascondono, ce li occultano, ma ci sono anche altri dati che vengono raccolti e vengono sfruttati da cloud vendor. Quindi quando parliamo di trasformazione digitale parliamo innanzitutto di una certa strumentalizzazione che si fa, no? In sostanza il motivo per cui si introducono queste novità digitali è esattamente quello di raccogliere i dati, e questo approccio i big tech ce l'hanno imposto, al mondo intero nell'ultimo ventennio, dal 2001 al 2021. Quindi è così, chiunque lavora nel settore sa che è così. Lo scopo principale è prendere dati, non è offrire un servizio. Tutto questo appunto iniziato da Google, con si calcola che nel 2002 con i brevetti di Google sull'advertising mirato si dia inizio al cosiddetto capitalismo della sorveglianza. Ecco, ma adesso esplodiamo un po' questo tema insieme ai nostri ospiti. Cosa è accaduto? Si può dire che sia stata travolta ogni forma di etica nell'IT in questo ventennio, ogni forma di etica costruita nel ventennio precedente? Ma sicuramente prima c'era un sogno del internet come strumento di libertà, e piano piano illudendoci, peraltro sfruttando anche abilmente questo sogno come meccanismo di marketing e di propaganda, facendo leva sulla nostra, per esempio, idea etica, no? Del filantropismo, no? Del dono, pensiamo all'etica del dono proprio. Società come Google o Facebook sono riuscite a farci credere che ci stavano facendo dei doni, che non volessero fare del male. Uscì il nudo d'uno tevil, dicevano, e in questo modo hanno iniziato a raccogliere i nostri dati. Noi non abbiamo capito bene subito che cosa stesse succedendo, anche noi tecnici. Sì, ci abbiamo messo un po', Perché? diciamo, qualche anno ce l'hanno rubato, anche perché agivano nel segreto. Ma perché hanno avuto le antenne più lunghe, d'altronde ci lavoravano da tempo, e si sono resi conto che ci sono diversi tipi di dati, no? Non tutti i dati sono uguali, ci sono i dati che noi esprimiamo, no? Come le parole che stiamo dicendo, che possono essere registrate, oppure una mail che scriviamo, o anche un libro che leggiamo, è comunque un dato impresso sulla carta. E poi ci sono i dati invece che noi, e quelli sono visibili. Noi quando andiamo a cercare un documento su Wikipedia, per fare un esempio, è visibile, no? Quel documento, quello che leggiamo. E poi ci sono i dati invece che noi emettiamo, e li emettiamo continuamente, anche solo con un clic su un link. Noi emettiamo una serie di dati che vengono raggiunti dal raggiungono i server di queste aziende, e che li registrano, mentre noi non ci pensiamo, no? Perché noi stiamo guardando invece il dato visibile, quello lì, il contenuto. Questo continuo registrare di dati, di misurazioni, si è esteso, in modo esponenziale nel tempo, è cresciuto in modo esponenziale, perché prima, era una raccolta di log, no? Di richieste web, banalmente, e poi è diventato invece tracciatura GSM sui cellulari, è diventato, OK Google, che, per poter reagire ai nostri comandi deve inviare, o Alexa, che deve inviare negli Stati Uniti ogni suono che il microfono riceve, perché possa essere elaborato. E se il garante della privacy dicesse: ma come? Ogni suono, ma ci rendiamo conto, ogni suono che raggiunge il microfono andrà negli Stati Uniti per essere analizzato? Loro ti dicono: eh sì, e nel momento in cui ti compri un Alexa, stai proprio chiedendo questo, perché Alexa deve poter interpretare quel suono, casomai che tu gli stessi chiedendo un ordine, no? Però nel momento in cui quel dato raggiunge gli Stati Uniti, cioè, i dati hanno questa caratteristica fantastica che, per esempio, le major di Hollywood odiano, no? E che questa caratteristica è che la copia del dato non lascia tracce. Quindi, come qualunque utente può copiare un DVD, no? Per backup, naturalmente, solo per backup, su una copia, in una copia locale. Nello stesso modo, loro possono usare un dato che viene registrato, che li raggiunge per una certa finalità, per qualunque altra finalità. Quindi E i dati si accumulano. una volta che gliel'abbiamo dato è finita, ce l'hanno, è loro per sempre, non c'è Sì, modo di dirgli per sempre, ridammelo, non c'è ormai modo loro di. lo hanno già copiato, neanche la legislazione può nulla, no? Si parla anche No, di il GDPR, di dato è iniziative tratto. legislative, ma finisce così, giusto? Il dato è Il dato è tratto tratto, mi in piace. questo In tratto, questo. e non si può più tirare indietro. Ma perché, appunto, la copia, cioè, ci sono delle norme che impongono, per esempio, ai GAFAM, così, di rimuovere, di nascondere certi dati. Per esempio, se io se una mia foto imbarazzante finisce su internet, io posso richiedere a tutti i singoli server che hanno quella foto, che pubblicano quella foto e rendono raggiungibile quella foto, di cancellarla. Poi in realtà loro non la cancellano, la rendono semplicemente non visibile, e naturalmente tutti coloro che se la sono salvati in locale continueranno a vederla. Però i GAFAM guadagnano, Google, Facebook, eccetera, accumulano questi dati, e da ciascuno di questi dati possono dedurre, da ciascuna di queste misurazioni, possono dedurre ulteriori dati sui soggetti che li conoscono, Che li hanno a cui emessi. riguardano. Per Ecco. esempio, Un esempio semplice, no? Se una qualunque applicazione che traccia, che ottiene la vostra posizione continuamente, osserva che voi periodicamente andate ogni settimana, il fine settimana, la domenica, per dire, nello stesso luogo, e quel luogo lì è una, supponiamo, una chiesa, Google naturalmente lo sa perché ha Google Map. Istantaneamente Google sa la vostra religione, se è una moschea sa la vostra religione, se è il comune magari sa il vostro posto di lavoro, se vi vede viaggiare per la città a certi orari può dedurre che il vostro mestiere magari è il letturbino, cioè ci sono tutta una serie di dati derivati probabilisticamente, naturalmente non ha una certezza assoluta, però dall'incrocio di diversi dati si possono dedurre una quantità enorme, esponenzialmente crescente di dati, e quindi ogni bit, ogni informazione in più che Google ottiene su un soggetto o su una comunità raddoppia il potere che ha su quella comunità, o Facebook che ha su quella comunità o su quella persona. Ecco, quindi il potere parliamo di... esponenziale non è come i soldi che aumentano in modo lineare. Esatto. Parliamo anche di modi che si potrebbero, di pratiche che si potrebbero mettere in campo per proteggersi. Ovviamente alludiamo alla cifratura, però su questo dobbiamo fare un po' un distinguo, no? C'è la cosiddetta cifratura a riposo, quando il dato è fermo e quindi può essere effettivamente cifrato e può stare dovunque. Se è cifrato, poi lo riporto a casa mia, me lo decripto e nessuno l'ha letto tranne me. Oppure il dato in transito, quindi quando va da A a B, si sposta, anche quello io lo posso realizzare in maniera abbastanza sicura. Il problema è quando il dato viene elaborato, cioè quando effettivamente viene utilizzato per realizzare un servizio web. In quel caso è ancora possibile fare qualcosa? In questo momento storico ancora no. Ancora. Ci sono delle ricerche in corso, però al momento si chiama crittografia omomorfica, ma al momento non è praticabile. Applicabile. E quindi quando Google dichiara di essere compliant con il GDPR e vende anche dei prodotti... Fumo negli occhi. Assolutamente. Spudoratamente, dovrebbe solo vergognarsi di dire una cosa del genere, perché lo sanno tutti che da Schrems 2, scusate se lo pronuncio male, insomma, è evidentissimo che i trasferimenti di dati negli Stati Uniti non sono possibili per essere compliant con il GDPR. È praticamente impossibile che Google, per dare i propri servizi, non effettui trasferimenti di dati negli Stati Uniti, per cui... Ma non solo, anche se non lo facesse, dal punto di vista legale, lo European Data Protection Board, ha scritto che anche l'accesso da remoto alle macchine, anche solo per manutenzione, conta come trasferimento. Quindi anche se il dato sta su un server che è in un data center che sta a Roma, poniamo, dagli Stati Uniti possono tecnicamente, no, collegarsi su quel data server e prendere qualunque dato. Hai detto bene. Mi permetto di aggiungere questa informazione per i radioascoltatori. Vai. Su questa io mi scaldo sul GDPR. Perché? Perché Google non può essere compliant con il GDPR, perché non è lei che può volerlo. Lei è sottoposta alle leggi degli Stati Uniti, e le leggi attuali degli Stati Uniti dicono che se c'è un ordine esecutivo, loro devono mostrare questi dati, e praticamente, siccome i contrappesi legislativi negli Stati Uniti sono inferiori rispetto agli Stati Uniti, all'Unione Europea, praticamente questa cosa fa in modo che i servizi segreti statunitensi possono accedere in qualunque momento ai dati di Google e dei GAFAM e di tutti i fornitori che sono sul territorio. Quindi anche di Microsoft, anche di Apple, anche di iCloud, cioè non stiamo parlando solo di Google. Google è solo l'inizio dell'acronimo. È solo non a caso, però voglio dire. Non è a caso, certo. Certo. Quindi diciamo che quando si parla di sovranità digitale, adesso è un tema che appunto con la cosiddetta qualunque cosa dove trasformazione. appaia Google, qualunque società con Google, o con Google o con Microsoft o con una società esterna, società extracomunitaria letteralmente, cioè statunitense piuttosto che cinese, che fornisca anche solo il software, mette in ridicolo qualunque velleità di sovranità, ma per un semplice fatto. Perché come il dato può essere acceduto fisicamente da un utente che si collega da remoto su un server di sua proprietà, quindi il sistemista di Google a Cupertino si collega sul server di Roma e prende i dati di Giacomo Tesi, supponiamo. Nello stesso modo, se il sistemista negli Stati Uniti ha il controllo del software e dell'aggiornamento del software del server di TIM, per fare un esempio a caso, di Telecom, a Roma, perché il software lo fornisce Google, no? Invece che essere un software libero, un software open source che viene amministrato da amministratori e sviluppato da amministratori In italiani casa. in casa, esatto. Nel momento in cui da Google possono aggiornare quel software può prendere quei dati, no, dopo essere stato aggiornato, di Giacomo Tesi e mandarli negli Stati Uniti. Cioè, e nessuno se ne accorgerà mai, proprio è tecnicamente impossibile osservare un trasferimento di questo tipo. Perché come l'accesso remoto costituisce trasferimento, anche come la possibilità di accesso remoto a un server costituisce un trasferimento a sé nei termini del GDPR verso gli Stati Uniti o verso qualunque altro paese, anche la possibilità, il controllo su un software che potrebbe fare tale trasferimento costituisce un trasferimento. Quindi non c'è proprio modo di avere botte Uno piene ci da moglie sarebbe in ubriaca. realtà, Se vuoi il Giacomo. software di Google o di Microsoft o di Apple, per fare solo degli esempi, anche se lo fai eseguire qua in Italia, anche se quel software è, diciamo, sotto l'amministrazione di un'azienda italiana, ma se poi questa azienda fa gli aggiornamenti che gli vengono pushati come Windows Update, per fare un esempio, da Microsoft o da Google per quello che riguarda una certa piattaforma cloud, quello stesso aggiornamento può veicolare un trasferimento poi verso l'esterno. È solo che utilizza un proxy automatico, un software, rispetto a farlo materialmente un utente a mano, Ecco, ma dicevo la che differenza non in c'è. realtà un modo ci sarebbe quello di controllare in proprio le infrastrutture e quindi erogare in proprio i servizi e non delegarli ad altri. Ma devi avere però tu il controllo del software. Compreso il software. Che lo Per diamo per dirla, scontato ormai, voglio dire, il software open source ormai. noi lo diamo per scontato, ma purtroppo questa cosa a livello politico non è assolutamente assodata. Se vogliamo proprio sintetizzare al massimo, chi controlla il software ovviamente controlla anche i dati. I Certo. tecnici queste cose le sanno benissimo, ovviamente. Purtroppo questo discorso non riesce a passare nella sfera politica, per cui se sembra che per tenere sotto controllo i dati e quindi essere rispettosi del GDPR sia sufficiente, tra virgolette, sufficiente che anche quello è abbastanza complicato da fare, tenere sotto controllo la trasmissione dei dati e quindi diciamo così, la connessione internet e quello che ci passa sopra. Ma non è solo così. I tecnici lo sanno che chi controlla il software controlla anche i dati. Bene, direi che siamo arrivati ad un altro punto di stop. Ci ascoltiamo un brano e torniamo in diretta fra 2 minuti. Desertica realtà, Questo signor è il K, mondo che il tu nano, conosci? LHHM, Il mondo com'era il alla fine pop del XX meticcio, secolo? quello che Sei vissuto sentite è in un mondo l'inizio di fittizio. Questo è il un pezzo mondo del che film esiste Matrix. oggi. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, anch'esso a tema.

è un evergreen quando si parla di controllo dei nostri dispositivi, no? Improvvisamente si scopre che il terrorismo e la pedopornografia sono diffusissimi nel mondo e quindi è necessario leggere i dati di tutti. E siccome tra l'altro siamo tutti potenziali terroristi e potenziali pedopornografi, nel dubbio tecnici al servizio di politici a mio avviso poco illuminati, ma loro si ritengono estremamente illuminati, hanno pensato bene di spostare mettiamolo così, di aggirare la crittografia che funziona bene. E loro hanno sempre, loro intendo dire chi ha la mania di controllo su tutto ciò che circola nel mondo, dal punto di vista digitale almeno, hanno sempre visto come fumo negli occhi. Allora loro hanno ben pensato di introdurre un sistema di controllo che va ad effettuare un po' come un antivirus, solo che invece che effettuare la scansione dei virus, effettua la scansione dei dati che ci sono sul computer, per cui va a secondo, tra l'altro, dei criteri abbastanza discutibili e anche abbastanza complessi, proprio come un... opachi. E molto opachi, ovviamente. Molto opachi perché è la natura di questi criteri che non può essere che opaca, purtroppo. Ma un po' come con gli antivirus, che ha tutto un elenco, si chiamano signatures, dei virus. Invece questi programmi hanno delle signatures di quelli che sono i contenuti proibiti, come se fosse una specie di indice. C'era i libri all'indice, c'erano una volta, fino a non moltissimi decenni fa, tra l'altro. È come se fosse un elenco di un'infinità di file all'indice, che questi software vanno a ricercare nei nostri dispositivi. Mi pare, correggetemi se sbaglio, ma non credo di sbagliare, che la prima ad aver proposto di applicare questo, proposto ad essersi resa disponibile ad applicare questo tipo di tecnologia sia la Apple sugli sì. iPhone. Sì, sì. Sì, era pronta a fare un deploy su tutti i cellulari iPhone. Con un aggiornamento, attraverso un aggiornamento, esatto. Perché, come dicevamo prima, tutti i dati, chi controlla il software controlla i dati. Esatto. Il problema lì è però che il paragone con l'antivirus ha un difetto. L'antivirus è un software che cerca delle applicazioni pericolose, insomma, ma informa il proprietario del computer. Invece, in questi certo. software cercano delle informazioni che qualcuno ha ritenuto, che un'autorità terza ha deciso essere pericolose, e informa questa autorità. E poi c'è una cosa anche da dire: ci sono mille modi poi per far sì, anche solo attraverso delle collisioni, perché queste signature naturalmente possono avere dei falsi positivi e dei falsi negativi, no? I falsi negativi naturalmente interessano relativamente, ma i falsi positivi interessano relativamente a quelli che fanno queste cose, perché sanno benissimo che tanto non troveranno tutto, ma i falsi positivi possono essere utili, perché se io ti do una signature di un'immagine che matcha sia una fotografia pedopornografica, sia una fotografia di del simbolo di un partito politico, io riesco a identificare tutti quelli che io ottengo, sì, sì, la segnalazione di tutti quelli che sono. E questa non è una ipotesi di scuola, perché ci sono già degli studi che hanno dimostrato che queste tecniche appunto di generazione di falsi positivi sono possibili. E sono peraltro anche desiderabili da parte di chi gestisce il sistema. Magari ce ne fossero tanti, pensano loro. Sembrerebbe quasi un modo per rubarci ancora più dati. Sì, da questo punto di vista non so se lo scopo, diciamo, nascosto potrebbe essere una cosa del genere. È una cosa tecnica anche questa, perché nella realtà, come quantità di dati, le agenzie di sicurezza, in particolare la NSA, ne ha così tanti che non sa più proprio dove metterli, e adesso, come oggi non è ben chiaro, ma qualche anno fa, fino al 2013, poteva tenere i dati fino a 24 ore, tutti quelli che riusciva a prendere, ne prendeva tantissimi, per cui più di così fanno fatica ad averli. Ma quello che qui, secondo me, si pongono due problemi, uno peggiore dell'altro. Il primo problema è che questo tipo di controllo e di sorveglianza così pervasiva, che andrebbe oltre alla già applicata sorveglianza globale su internet, metterebbe a rischio un sacco di persone scomode ai regimi di tutto il mondo. Noi viviamo in un regime particolarmente tranquillo per adesso, insomma. Relativamente. Poi vabbè, relativamente, perché appunto poi adesso non entriamo nel merito e nel dettaglio di quali sono i problemi anche di questa parte di regime, ma ci sono regimi nel mondo in cui che non vedono l'ora di riuscire a mettere le mani sui dispositivi dei propri cittadini per tenere ulteriormente sotto controllo i dissidenti. Ecco. Dimmi, Giacomo. No, io volevo aggiungere solo una cosa, che dimostratamente, ma è anche questo notissimo, no? Voi sapete che Google, ma non solo Google, ma anche Facebook, ma anche qualunque sistema di advertising è capace, un po' moderno, è capace di identificarvi e di farvi vedere lo spot che volete, che è più probabile che colpisca il vostro desiderio, no? Ebbene, nello stesso identico modo, nel momento in cui vi identifica e serve al vostro browser oppure al vostro cellulare quello specifico spot, può tranquillamente inviare un sistema del genere, può tranquillamente inviare uno specifico script, uno specifico pezzo di codice JavaScript che il vostro browser eseguirà pedissequamente, perché è un computer, insomma, è stupido, e fa quello che gli si dice, fa quello che dice il codice. Allora, che è un'altra forma di dato, peraltro, si potrebbe parlare per ore. Questa cosa significa che quel codice può scaricare, senza che voi ne sappiate nulla, un'immagine, immaginiamo, pedopornografica sul vostro cellulare. Può creare, ma è una cosa che è stata spiegata e dimostrata sia a Google sia a Mozilla, che peraltro è il PR ormai geek di Google, con tutti i milioni che gli danno. Gli è stato spiegato che questa cosa può succedere, però ci sarebbero delle modalità per renderlo difficile, quantomeno più difficile. Però impatterebbero troppo i business model di troppe aziende, e quindi bravo, non fa niente. Però qualunque ente che su internet vi può identificare può caricare sul vostro device, a vostra insaputa, senza che voi neanche la vediate, un'immagine pedopornografica che poi questi sistemi potrebbero individuare. Problemi vostri, poi, quando vi vengono a trovare e trovano effettivamente, andategli a spiegare a un giudice che quell'immagine la potrebbe avere, l'ha caricata a vostra insaputa un sito internet che voi avete visitato e che in qualche modo è riuscito a identificarvi. E questo è un aspetto importante, che in qualche modo rientra nel primo dei due aspetti, la possibilità di riuscire a fare degli attacchi, permettetemi l'inglesismo, targettizzati nei confronti di persone sgradite a chi ha la possibilità di controllare questo sistema. E di persone che possono controllare questo sistema ce ne sono tante, perché è necessario e sufficiente avere un potere, il potere di condizionare chi carica il software sul vostro computer, per esempio attraverso i JavaScript, oppure montando dei siti falsi. Ci sono, in letteratura sulla sicurezza, su come si prendono ransomware, virus, eccetera, ci sono tonnellate di lavori. Questo potrebbe essere un altro dei fini, okay, portati a termine con gli stessi vettori di attacco di ransomware, virus, malware, spyware, eccetera. Ma c'è il secondo ordine che è ancora peggiore, il secondo ordine di problemi, che noi abbiamo software che già dal punto di vista della sicurezza è abbastanza problematico senza andare ad aggiungergliene di potenziali problemi. Se noi andiamo ad aggiungere a un software che è mediamente insicuro un altro potenziale punto di attacco, vettore di attacco, che è lo specifico pezzo di codice che è nel sistema operativo o in un'applicazione che noi carichiamo, che è quello che fa lo scan client side, quello si trasformerà sicuramente, matematicamente, in un'ulteriore porta di accesso per cybercriminali che possono prendere il possesso del nostro sistema operativo e perpetrare i loro attacchi. Quindi non si tratta solo di un sistema pervasivo di ultrasorveglianza che può attaccare persone sgradite al sistema o a certi regimi, ma è anche un problema di sicurezza. Introduce una vulnerabilità effettiva, esatto, un problema di sicurezza. Una effettiva aumenta di parecchio. Ma lo può fare anche chiunque abbia un sito internet e sia in grado di identificare l'utente. Cioè, certo. se tu ti autentichi alla mia pagina web, non lo so, per qualunque cosa, ma anche se io non sono Facebook, basta che io sappia, sia in grado di identificare il tuo computer, magari perché so che hai un IP specifico, no? Perché magari stiamo chattando in peer-to-peer e quindi io so qual è il tuo IP. In qualunque modo è sufficiente essere in grado di identificare il tuo computer e di fargli eseguire del codice che... Allora, diciamo che siamo in chiusura, chiaramente siamo andati lunghi, il che significa che vi rinviteremo e approfondiremo tutto quello che non siamo riusciti a dire questa volta. Dicevo, siamo in chiusura, non possiamo andare oltre adesso, ma vi rinviteremo e quindi potremo parlare ancora di questi temi. Perfetto, però una cosa però vorrei dirla in chiusura. Abbiamo detto appunto che se si cede ad altri il controllo sull'elaborazione dei propri dati, succedono due cose fondamentalmente. Una è che non abbiamo il controllo sui consumi energetici, quindi proprio a livello di appunto controllo delle emissioni di gas serra non abbiamo strumenti per poterlo fare. Due, abbiamo visto anche che l'invasività e la pervasività di questi sistemi arrivano fino a dentro i nostri dispositivi. A questo punto accenniamo semplicemente a quali potrebbero essere degli antidoti, poi ne parliamo ovviamente la prossima volta. In particolar modo mi riferisco al self-hosting. Self-hosting è la possibilità di avere sui propri dispositivi e sui propri computer, sui propri server, ma anche server possono essere anche dei computer di fascia bassa in certi contesti, certo. Sui propri server avere i propri dati e elaborarli personalmente. Il self-hosting si fa per i siti internet e nel caso dei siti internet è abbastanza semplice, lo si fa per le email, lo si fa per le chat, per le videochiamate, lo si fa per mille cose. Esistono software open source e software liberi che permettono a chiunque ne abbia le competenze o chiunque voglia acquisirle, esatto, o abbia anche solo degli amici che abbiano queste competenze, sì, con cui si può fare insieme, no? Perché e si possono acquisire, appunto, si possono espandere. Questa è una soluzione. Un'altra soluzione è un'attentissima minimizzazione dei dati trasmessi, ma richiede notevoli competenze tecniche. E poi c'è la questione di decentralizzare, però quella è una questione che diventa soprattutto politica. Sì, infatti troppi temi, non facciamo in tempo ad esploderli adesso, quindi ci diamo appuntamento la prossima volta. Bene, Entropia Massima finisce qui, grazie per averci ascoltato, in particolar modo a chi l'ha fatto dal carcere. L'appuntamento quindi è per lunedì prossimo e un saluto ai nostri ospiti. Ciao, ciao. Ciao, a presto.